Un uomo, una leggenda, un'impresa che ci ha fatto sognare. Felix Baumgartner, l'uomo che ha superato il muro del suono lanciandosi da 39.000 metri. Solo noi, di non aprire quella persiana, non aprite quella persiana, abbiamo la comunicazione originale tra la sala di controllo e il jumper austriaco. Solo noi siamo in grado di farvi trasmettere cosa realmente pensava Felix durante il lancio che lo ha reso una leggenda. Prego, avanti con la registrazione. Vengo come scelto qua sotto. Che cazzo mi ha fatto te? Sto porto la notte, andiamo dietro di là. No, voglio. No, proprio no, tengo. Mi ingegno in Berlando, voglio. Che ce ne manda? Mi sto prendendo un profondo! No, voglio. Come stai proprio cagando su? Durante le ultime hai fatto una faggiata per farti niente, per farti niente, ci siete rimasto retire. Miglia tua, ma tutta la stanza mi rende amaro, con voi hai detto che non andiamo a tenere. No, aspetta un attimo, con la vera volevo mantenere un medio, perché per portare una stretta, ho 47 pollici, durante le cose. Ma aspetta un attimo, con voi io. Bomba, forse mi sono capito, ma come la stanno perdendo tempo? Da vietare! Da vietare, non è capito! Sì, sì, sì! Ui! Oh, mio Dio! Wow, quasi mi da puta sto vito, no? Mi da più non dire! Guarda, se tu la fonda dei cucchiai, la tua fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vendicotti, ma tu la fonda dei vend mä oon tuli liikko, kun jostain tästä pekoon. Mä oon sikaato. Joo, no, mä oon sinne. Onko se niinku sitä, mä olisin kuva kiteen muuta. Kyllä, tuokko. Tää on sinne, sillä ketuu. Tästä, että ette tarvitse mukaan. Hattin hyvää, että ette tämä niin, että Uumudia, tiiä. Mä astan, että tätä sinun kohdassa. No mitä katsotaan tätä liikkuu, tätä liikkuu. Moka niin, siinä, tätä liikkuu, kuu, että ei uuna vai vai. Ja kuska, uuna. Tuo, moi liikkuu, tiiä. Felix, sulle note di Lupinè, si lancia su per il muro del suono e arriva a terra, va a cadere sul terreno di patate del signor Annibale Higwell di Spezzano. Sì. Voglio, mamma che boata, voglio, mamma che boata che hai fatto, voglio, una cosa allucinante, una cosa allucinante. Uè, su primo si va dolce. E guarda che bello patate che ci sono qua, comba, non mi conosce a me, se mi chiede che si è lanciato, Felix Banga, cazzo. A me mi ne fico a nendo proprio, che la mattina. Mi faccio una foto, mi faccio una foto, mi faccio pure una caca di patate, eh. Oh, oh, oh, ma che c'è una carabina, ma che muo, si, si, come vieni, come vieni. Ma che caro record, stasera ti voglio mangiare porci. Felix Banga, nero. Un uomo, un eroe, non mi viene. Avessi anche un'anima, sarebbe un privilegio. È così fredda e tu invece sei tiepida e assorbi il mio stupore. Ti vedo nuda, ti vedo sei come me, che attiri l'attenzione. Ma nello specchio rifletti la tua onestà, che ti faceva onore. Tu reagivi molto meglio. Negra minaccia né polvere nevica, solo sul tuo passato. Così col trucco nascondi la nostalgia degli anni più felici. Ma il tuo sorriso promette serenità, la primavera non darà profumi di silenzio. Buonasera a tutti e benvenuti all'edizione serale di Sky TG 69. Ecco le notizie dell'ultimo. Recenti studi dimostrano che il Viagra può causare sordità improvvisa, soprattutto se lei gradisce. Approvato il processo breve, meno pubblicità durante forum. All'ospedale di Brescia hanno scoperto come risolvere il problema dei posti letto. Da domani, infatti, i malati saranno ricoverati nella corsia d'emergenza della Milano, Venezia e anche della Salerno, Reggio Calabria, ovviamente i tratti terminati. Nuovo anno scolastico è già iniziato con le proteste odierne degli studenti e la protesta globale di tutti gli studenti del mondo più ricorrente è quella ancora 5 minuti, mamma. Incendio a casa di Totti, ha preso fuoco la biblioteca, c'erano soltanto due libri, pertanto nessuno di tanto. Dati Istat sul lavoro, l'Italia conta 5 milioni di disoccupati e non ha ancora finito di contare. Risponde il governo, nessun disoccupato rimarrà solo, sono talmente tanti che possono farsi un sacco di compagnia. Andiamo in America, dove il processo di Michael Jackson mettere all'evidenza che quando era già morto era già uscito da una raccolta dei suoi successi, mentre guerra tra Corea del Nord e Corea del Sud si consiglia di uscire a Corea Ovest. Bene, per oggi è tutto, arrivederci da SkyTG69.